o entravano in un cinema e uscivano durante la proiezione. Eravamo muniti di apparecchiature in grado di localizzare la radio del nostro inseguitore. In realtà i tedeschi avevano cifrato i loro canali radio, ma il nostro apparecchio emetteva un segnale quando la loro radio era accesa. Produceva un suono così, bul bul bul bul bul. Non appena sentivamo questo rumore, sapevamo che si trovavano nelle vicinanze. E quando un ufficiale del KGB si accingeva ad incontrarsi con un agente, doveva fare in modo di non essere osservato. Il cosiddetto residente dell'ambasciata estera e i suoi collaboratori si muovono in tutta la Repubblica Federale Tedesca. Da Bonn comandano una vastissima rete di spionaggio e i loro agenti sono dappertutto, persino nei ministeri di Bonn. In questo gioco a nascondersi, le segretarie proprio nei ministeri hanno un ruolo fondamentale, avendo accesso a tutti i documenti importanti. Già dalla fine degli anni 50 il KGB, insieme al suo servizio segreto amico, la Stasi della DDR, cerca di utilizzare come fonti di informazioni. Agenti scelti dal KGB, i cosiddetti Romeo, devono far credere loro di amarlo. Prendete la segretaria del cancelliere federale nell'ufficio del cancellierato, o la segretaria del direttore generale di qualche ministero, o quella del segretario di Stato. Ha accesso alle informazioni e non interessa che abbia determinate idee politiche, deve limitarsi a consegnare documenti originali. Fu così che a un certo punto si è arrivati ad avere nella cancelleria federale quattro segretarie che al tempo stesso erano attive come agenti. E potete immaginare cosa arrivava lì solo di documenti. È stato accertato che in genere non erano sposate e frequentavano i caffè da sole in cerca di un uomo. Di solito non erano molto attraenti, ma sul lavoro erano bravissime. Così gli agenti Romeo si sedevano nei caffè il sabato e facevano la posta, e in molti casi riuscivano ad abbordarle. Se un agente è in missione nella Repubblica Federale Tedesca e poi a Bonn conosce una donna, si innamorano e alla fine si sposano addirittura, perché mai non dovremmo tentare di sfruttare la situazione e indurre la donna a collaborare? Riprendiamo da qui, dopo la viabilità. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. 1968, Germania Ovest. L'Ufficio federale per la tutela della Costituzione tenta di informare attraverso la televisione le potenziali vittime di possibili inganni tesi dagli agenti del KGB. È il racconto del caso di Leonor Zutterling, che viene arruolata per conto del KGB attraverso un inganno del marito Heinz. Il KGB, dopo lunga e approfondita osservazione, ha scelto tre segretarie negli uffici di Bonn per il suo agente Heinz Zutterling. La professione ufficiale di Zutterling è fotografo. Il suo compito è conoscere una delle tre donne, sposarla al più presto e reclutarla come agente. Zutterlin opta per la graziosa Leonor. La segretaria, dopo poco, diventa la signora Leonor Zutterlin e ben presto si lascia convincere dal marito agente a collaborare. La signora Zutterlin dal Ministero degli Esteri corre a casa, nella borsa ha i documenti segreti del giorno. A casa, Heinz Zutterlin fotografa i documenti di sua moglie, poi invia i rullini a Mosca con un corriere del KGB. In questo modo pare che abbia trasmesso più di 200.000 documenti. Dopo 6 anni di attività per il KGB, Leonor Zutterlin e il marito vengono smascherati e arrestati. Ascoltiamo un notiziario del 1968. Wir waren alle sehr überrascht, als wir von der Verhaftung der Familie Zutterlin erfuhren. L'arresto dei Zutterlin ci ha lasciato tutti stupiti perché erano dei vicini molto gentili e disponibili. Soprattutto lei era simpatica a tutti. Non abbiamo mai trovato nulla di strano. Es ist uns nichts Besonderes aufgefallen. In tribunale Heinz Zutterlin dichiara di aver sposato sua moglie solo su istruzione di Mosca, ma di non averla mai amata. Quando Leonard Zutterlin viene a saperlo, si suicida in carcere, solo una delle innumerevoli vittime della cosiddetta guerra fredda. Le dirò la mia opinione personale per quanto riguarda il concetto di guerra fredda. È il concetto in sé che non mi piace. Che significa guerra fredda? La guerra è guerra. Era la voce del capo della stazione del KGB a Bonn, Boris Laptev. Nel cuore della Germania corre una frontiera impenetrabile. Con la costruzione del muro nel 1961, la DDR è sbarrata ermeticamente. Dietro il muro che divide in due Berlino, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il KGB ha stabilito il suo quartier generale tedesco a Karlhorst, a Berlino Est. Qui vi lavorano fino a 600 ufficiali del KGB. Dietro i muri si nascondono uffici amministrativi, abitazioni e persino una clinica. Ce ne parla Oleg Gordievsky. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il KGB aveva impiantato questo grande quartier generale nella Germania Est. Rapidamente era stata messa su una grossa organizzazione lì a Karlshorst. Negli anni 70 la DDR contribuisce annualmente con 1,3 milioni di marche al mantenimento della base della Stasi e il Ministero per la Sicurezza dello Stato per la Germania Est lavora a stretto contatto con il KGB. Ce ne parla proprio il capo della Stasi degli anni 80, Werner Grossmann. E poi ovviamente a Karlshorst si trovava la succursale del KGB, dove c'erano collaboratori che erano impiegati lì da parecchio tempo. Perciò ci conoscevamo a vicenda e tra noi c'era una stima reciproca. Perciò la collaborazione era davvero molto stretta. C'erano molte manifestazioni collettive. Andavamo insieme a pesca, a caccia. Organizzavamo feste da ballo. Di regola celebravamo insieme tutti i grandi eventi e le feste, con noi sovietici al fianco della DDR. Era una vita piena di impegni, non avevo un solo giorno libero. Era la voce del capo stazione del KGB a Bonn, Boris Laptev. Ufficialmente l'amicizia tra la DDR e l'Unione Sovietica è incrollabile, anche se, in genere, è Mosca a dettar legge. Ma dietro le quinte, la Stasi della DDR si sente perlomeno alla pari con i compagni sovietici. A parlarcene un ex colonnello della Stasi, Günther Bonsack. Ogni potere proveniva da Mosca, ma anche noi eravamo abbastanza sfrontati da riconoscere il nostro valore e lo davamo ad intendere quando dicevamo «gli amici ritengono» o «gli amici hanno detto». E la parola «amici» veniva accompagnata da un ammiccamento più o meno marcato, come a dire «sì, certo, gli amici». Negli anni 70, nel quartier generale della Stasi in Normannstrasse a Berlino, lavorano 263.000 collaboratori, ufficiali e non ufficiali. Ascoltiamo ancora Oleg Gordievsky. Fino al 1970, le comunicazioni con la Stasi erano state sempre a senso unico. La Stasi eseguiva o forniva tutto ciò che il KGB voleva.

In centri di addestramento a Mosca e dintorni, i futuri ufficiali del KGB ricevono una preparazione lunga e approfondita. La loro formazione dura diversi anni. Ogni informatore deve saper sparare bene, deve tenersi in forma e via dicendo, e deve prepararsi psicologicamente all'eventualità che un giorno potrebbe essere arrestato. Filmati didattici hanno lo scopo di preparare gli aspiranti ufficiali ai pericoli che possono correre all'estero. Credo che noi due dovremmo fare una chiacchierata. Mi chiamo Bill Parker. Sono un collaboratore dei servizi segreti americani. Un pericolo tipico è l'arresto. In qualità di diplomatico vieni rilasciato, ma possono spezzarti le ossa o investirti con un'auto. Comunque il rischio del mestiere non è elevato come per i pompieri. Nonostante tutto è un lavoro ambito, ci si dà grande importanza e si hanno possibilità che altri non hanno. È un'elite, come la definisce Volker Firsch, ex capo dei servizi segreti in Germania. Si trattava di un gruppo di persone che si consideravano un'elite e obiettivamente di fatto lo erano pure. L'addestramento comprende un corso di 2 anni all'Accademia del KGB a Mosca. Lì gli uomini del primo direttorato centrale, il Dipartimento per lo spionaggio estero, imparano il loro mestiere. Il tema di oggi è il reclutamento di agenti all'estero su basi ideologiche. Gli uomini del primo direttorato centrale venivano all'estero, che era già una cosa molto bella e importante per i sovietici, e anche la retribuzione di norma era piuttosto buona. Gli incarichi all'estero portano molti agenti russi nella DDR, che è come un po' fosse l'occidente del blocco comunista. Nella metà degli anni Ottanta nella DDR si vive molto meglio che nell'Unione Sovietica e si è più vicini al principale teatro di operazioni, l'Occidente. Mosca era lontanissima dalla linea di confine tra i due blocchi. Perciò con i miei servizi dovevo avvicinarmi di più a quel confine. Il KGB aveva una sua filiale in ogni capoluogo distrettuale della DDR. In ogni distretto c'era il KGB. Nella filiale di Dresda del KGB, al civico 4 di Angelika Strasse, un piccolo gruppo di ufficiali compie il proprio servizio senza dare nell'occhio. A cosa lavorava lì il KGB? Principalmente a procacciarsi degli agenti da impiegare nei paesi occidentali. Uno degli ufficiali è il maggiore Vladimir Putin. Dal 1985 al 1990 è a Dresda con la famiglia e il cane. Alcuni ricordano la sua particolare propensione per il lavoro meticoloso. A raccontarlo è Oleg Gordievsky. Bisognava ordinare documenti, scrivere verbali e circolari. Di questo lavoro si occupava Putin. Forse non si trattava di compiti decisivi, ma non erano irrilevanti. Ed è per questo che lo chiamavano ufficiale Stasi. In qualità di ufficiale di collegamento, Putin entra ed esce dal dipartimento locale della Stasi a Dresda. Anche durante il tempo libero esistono stretti contatti. Ce ne parla il collega della DDR, Wenzel. Erano molto interessati a conoscere le nostre storie e questo aveva un feedback sul lavoro. Loro si trovavano sul suolo tedesco, nel territorio della DDR, e dovevano farsi un quadro dei problemi tedeschi. Inoltre, in qualità di informatore, è importante conoscere anche determinate questioni storico-culturali e ciò favorì naturalmente la nostra cooperazione. Putin abita vicino al suo ufficio in un casermone prefabbricato. Gli uomini del KGB non parlano molto del loro lavoro. Ancora Gunther Wenzel, ex colonnello della Stasi. Per me, in qualità di ufficiale dei servizi segreti, era ben chiaro in cosa consistesse il suo lavoro. Quella gente era responsabile dell'attività di spionaggio dell'avversario nel teatro di operazione, vale a dire nella Repubblica Federale Tedesca. Negli archivi della Stasi di Dresda sono conservati solo pochi documenti nei quali appare il nome di Putin. Il superiore di Putin era il generale del KGB Vladimir Sirakov. Dai documenti risulta che ancora nel 1989 Sirakov tenta di arruolare come agenti dei servizi sovietici cittadini della DDR e visitatori della Germania Ovest. Ne parliamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Il generale Ivan Ustinov ha diretto il terzo dipartimento del KGB, il reparto cui hanno fatto parte Putin e Sirakov. Il suo scopo è noto: spionaggio e controspionaggio militare contro la Repubblica Federale Tedesca. Anche se a Dresda e altrove gli ufficiali del KGB continuano a lavorare indisturbati, verso la metà degli anni Ottanta, nel blocco comunista, si respira un'atmosfera da crepuscolo degli dèi. Il crollo della DDR e dell'impero sovietico non sembra più così improbabile. Rimanemmo drammaticamente indietro rispetto all'Occidente. Il nostro sviluppo e la nostra crescita economica si arrestarono. Nell'autunno del 1989, dall'altra parte della Germania, nella DDR, i cittadini manifestano per avere uno Stato più umano. Il KGB sa già che la DDR minaccia di crollare. Vladimir Kruchkov, allora, è presidente del KGB. Avevamo consegnato dei dati a Gorbaciov che mostravano come, se non fossero state prese delle contromisure, presto la DDR non sarebbe più esistita. All'epoca non sapevamo ancora che Gorbaciov lavorava attivamente alla riunificazione della Germania. Il KGB può solo osservare gli sviluppi, non influenzarli. Gli manca la libertà d'azione politica per poterlo fare. A riparlarne adesso, posso dirle solo quanto segue. All'epoca, quando questo processo iniziò, i servizi segreti sovietici erano disorientati. Alla fine siamo stati abbandonati o venduti. Da Gorbaciov siamo stati venduti e dai servizi segreti russi siamo stati abbandonati. Il 15 gennaio del 1990 i dimostranti assaltano la sede della Stasi a Berlino Est. La Stasi viene sciolta. Con la caduta del muro è evidente che il KGB non potrà più mantenere la sua base nella DDR. Oggi la centrale del KGB a Karlshorst non nasconde più segreti. Tutti i suoi dati e impianti sono portati di nascosto a Mosca. Dal 1991 il KGB è ufficialmente sciolto. Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera a Mosca, che ruolo ha avuto il KGB nel crollo dell'Unione Sovietica? Certamente non voleva far crollare l'Unione Sovietica, però non c'è dubbio che la perestroica di Gorbaciov nasce dall'analisi del KGB, cioè negli anni Ottanta si produce nell'Unione Sovietica questa situazione paradossale per cui il Partito Comunista perde sempre più il contatto con la realtà, è la famosa stagnazione brezneviana, è un partito che ormai va avanti per cooptazione, non vanno avanti i migliori. E allora l'unica in realtà istituzione dello Stato sovietico che continua ad avere meccanismi di selezione molto duri, che continua ad avere personale di alta qualificazione, che ha il vero polso del paese, che si rende conto che il paese sta andando alla rovina e che i meccanismi economici sono tutti saltati, è proprio il KGB. E cosa fa in quel momento? Beh, porta il suo uomo alla guida del paese, Andropov. Andropov era l'ex capo del KGB che succede a Brezhnev e che avvia le prime timide aperture riformatrici. Dopodiché ovviamente c'è una lotta interna, perché quando muore Andropov, come noi sappiamo, c'è un anno in cui i conservatori riescono a portare un loro uomo al governo, alla guida del partito, che è Chernenko, ma ormai molto malato. E poi infine nell'85 arriva al potere Gorbaciov, che era stato il pupillo di Andropov. Ora, Gorbaciov non viene dal KGB, però non c'è dubbio che tutte le analisi che poi portano alla perestroica vengono elaborate proprio dal KGB. Nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica c'è una sorta di sbandamento ed una sorta di apertura. Ecco, appunto, quindi anche nei servizi segreti dell'Unione Sovietica c'è un'operazione di trasparenza. Ma è un'operazione che è assolutamente breve, che avviene in questo momento di grande sbandamento e caos, che è l'estate del 1991, ma è una finestra che dura pochissimo e che poi si richiude. E quindi oggi che struttura hanno i servizi segreti russi? Hanno la stessa importanza che ha avuto il KGB nella storia dell'Unione Sovietica? Beh, sicuramente hanno, oggi si chiama FSB, Servizio Federale di Informazione. È una struttura imponente, almeno quanto lo era sotto l'Unione Sovietica. Come noi sappiamo, Putin viene dal KGB, da quel mondo, e che moltissimi dei personaggi che oggi sono in ruoli fondamentali nella struttura di governo, anche al di fuori dei servizi, vengono proprio dall'FSB. Quindi proprio un'operazione di formazione della classe dirigente. Non c'è dubbio che che nel KGB si è formata una parte della classe dirigente del paese, tanto più la classe dirigente putiniana, che è un po', se vogliamo, la sua forza, ma anche il suo limite. E Putin, appunto, viene da lì, ma che ruolo svolgeva, si sa? Lo sappiamo, cioè Putin era un agente non di altissimo rango, molto stimato, perché aveva subito imparato le lingue straniere, che viene mandato per lunghi anni a Dresda, dove è il capo della sezione del KGB di Dresda. E Putin è stato sempre un modello di efficienza dal punto di vista della sua capacità di lavoro. Ecco, ma dopo Dresda cosa succede nella vita di Putin? Quando Putin torna nell'Unione Sovietica, poco prima del suo crollo, quando lui torna nell'89, viene assunto come numero due dall'allora sindaco di San Pietroburgo, di Leningrado, appena ridiventata San Pietroburgo, Anatoly Sobchak, che ne fa il suo braccio destro. E quella lì fa il passaggio. La posizione di vice sindaco funzionario di San Pietroburgo è la base da cui poi Putin riparte per scalare il potere. Per scalare il potere, perché poi sarà lui a essere scelto dal gruppo yeltsiniano come successore di Yeltsin. E invece Paolo Valentino, il più grande insuccesso del KGB? Il più grande successo del KGB? Direi che un successo insuccesso, ed è quello della Stasi, che era la polizia segreta della Germania Est, che riuscì a piazzare una talpa nell'ufficio di Willy Brandt, il cancelliere tedesco, fino a farlo diventare Günter Guillaume, il suo principale collaboratore. Sì, lo abbiamo raccontato. Quando la scoperta di lo smascheramento di Günter Guillaume costringe Willy Brandt alle dimissioni, quello diventa un insuccesso, perché il mondo comunista, quindi il KGB, la Stasi, ma soprattutto il blocco comunista, perde l'uomo della Ostpolitik, perde l'uomo che aveva fatto per il dialogo fra le due Germanie, e che aveva probabilmente con la sua Ostpolitik gettato le basi di quelle che poi furono le manifestazioni che 15 anni dopo, nel 1989, avrebbero portato alla caduta del muro di Berlino. Quindi si trasforma poi in un boomerang, sì. Diventa un boom. In questo senso, quella, diciamo, quell'operazione, l'operazione Guillaume, che in quel momento fu un successo incredibile, perché Guillaume aveva attraversato in 10 anni tutta la filiera per arrivare al fianco di Brandt, si rivela poi nel lungo periodo un insuccesso, perché loro perdono l'uomo del dialogo, cioè Willy Brandt. Ricordiamo che il cancelliere socialdemocratico che viene dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt, sarà il cancelliere che chiede gli euromissili, che chiede agli americani di impiantare gli euromissili in Europa per contrastare gli SS-20 sovietici che avevano alterato la bilancia strategico-nucleare tattica nel teatro europeo.